Il mondo esiste perché c'è sempre qualcuno da qualche parte che racconta una storia. Leggende ticinesi è un'opera radiofonica che esplora lo stato delle leggende e del meraviglioso nelle regioni rurali del Ticino. Tante persone dicono che è vero, ma certe persone non ci credono. Nell'era del metaverso, cosa ci racconta questa tradizione orale sull'immaginazione e la memoria dei ticinesi? Un viaggio sonoro di Zoé Rossio. Un giorno, il a fait un rêve. Il s'est arrêté. C'était quoi? Mia madre, grande collezionista di libri di leggende, ha alimentato il mio interesse per le storie, che si è presto trasformato in una passione. Come regista della Svizzera francese, voglio scoprire le storie che hanno plasmato il mio paese. Sveglia presto in una calda mattina d'estate, partiamo in direzione del Malcantone, una regione di confine famosa per le sue leggende. Banditi, esuli politici di ogni genere sono passati di qui, portando con sé le loro culture, ma anche i loro sogni e la loro visione del mondo. Ci avviamo verso il comune di Tresa per visitare l'ultima miniera d'oro della Svizzera aperta al pubblico, che alla fine dell'Ottocento era chiamata la Nuova California del Ticino. Ben arrivati, prima di tutto. Vedo che avete trovato bene, perché l'altro giorno c'era una signora un po' arrabbiata. Noi abbiamo girato mille paesi, ma qui... Sotto un sole cocente incontriamo Martino Molinari e Florian Lorenzetti, guide e membri dell'Associazione della Miniera d'Oro di Sessa. Affacciata sulla Valle della Tresa, la vecchia miniera ha un'atmosfera accogliente. È difficile immaginare che 200 anni fa gli uomini scavavano le viscere della terra nell'oscurità. Come apertura sul buio e sulla morte, la miniera ha alimentato l'immaginazione della gente del posto. Questa leggenda dice che appunto qualcuno è entrato e si è visto arrivare addosso una luce fosforescente, un alone forte, e dopo ha sentito un odore, una puzza fortissima. È scappato fuori dalla miniera e gli è restato addosso questo odore. C'è una leggenda famosa qui della zona, proprio il Condrugé. Questa me la raccontava mia nonna da piccolino. Aveva i cavalli, rapiva le donne e poi le portava giù nelle segrete del suo castello. Quando è morto il Condrugé, il diavolo non l'ha voluto, l'ha rimandato sulla terra, e allora c'erano i contadini a falciare e sentivano sempre questi ululati, forse di lui e dei suoi cani, e hanno incrociato le falci a mo' di croce, e da quel giorno lì l'anima del conte Ruggero è sparita. Leggenda, storia vera, chi lo sa, resta l'alone di mistero. C'è un'aggiunta alla leggenda, perché dopo aver fatto appunto questa sua carriera di feudatario ribaldo, dopo la morte Ruggero continua in qualche modo la sua carriera a capo della caccia selvaggia, che è un mito invece germanico. Renato Giovannoli, semiologo ticinese. I folcloristi hanno fatto tante ipotesi. Una delle ipotesi è che ci sia un rapporto stretto con l'esercito dei morti di Odino, quindi un mito proprio germanico, è passato poi nel folklore, si dice appunto in queste leggende che di notte compaia un esercito o una caccia, cioè di con cani in cielo, che spaventa la gente. E appunto il conte Ruggero, dopo essere stato una specie di nominato manzoniano, dopo la morte diventa appunto il capo della caccia selvaggia. Ruggero è un nome odinico proprio, era un nome che in qualche modo si riferiva ad Odino, il quale possedeva infatti una lancia magica, la lancia Gugnir. Ecco, è curioso che su un vero Ruggero si sia innestato invece un Ruggero mitico. Inventarsi delle storie sia un esercizio importantissimo per ragionare sugli uomini, su quello che gli uomini possono sognare, su come trasformare il mondo, è fondamentale. Mauro Geraci canta storie. Quindi anche le cose meravigliose certe volte sono cose che non sono mai avvenute, ma sono cose che al loro interno conservano relazioni, valori, aspetti che viceversa trovi nella realtà. C'era questo alone di mistero, secondo me, intorno alla miniera, perché sapevi che c'era la miniera, ma in realtà nessuno la conosceva bene. Forse l'aspetto leggendario oggi viene sempre meno, perché oggi la conosci. E quindi quando tu hai la conoscenza probabilmente la leggenda cade un po'. La leggenda era più forse più in voga anni fa, quando la miniera era ancora chiusa, abbandonata. Tuttavia sembra che, nonostante il progredire della conoscenza, l'interesse per le storie, reali o immaginarie, perduri ancora oggi. Lui ha scritto, appena scritto, un libro sulle leggende del Abbegliora. Un fattore che è capitato di due preti che poi, in due periodi differenti, inizio 1800, si sono innamorati della Perpetua e poi l'hanno uccisa. È stato nel 2003, durante la riattazione di una casa patrizia a Bedigliora, nella canna fumaria, è stato trovato un teschio. È stato mandato all'Università di Pavia per vedere se era uomo o donna. Presumibilmente era uomo, però è rimasto nella canna fumaria, perciò con la fuligine e così, però morte violenta, perché c'aveva dentro un buco qui grosso, una martellata, una picconata, qualcosa del genere. Ah, una volta non guardavano, sparavano, è vero però questo. Ah, sì. Sì, me l'ha raccontato mio padre, che l'aveva sentito. Mina, un abitante del posto, si aggiunge alla discussione. Erano molto litigiosi, tutti andavano a caccia e tutti avevano il fucile, e dopo non lo usavano soltanto per la caccia, lo usavano per farsi la caccia fra loro. Era tipico della Svizzera di avere quell'idea di farsi giustizia fra loro. E lei dice che praticamente questa storia non è una leggenda, perché non è una storia... Dopo io l'ho scritto dando un po' di colore a tutte le cose. È la più importante pubblicazione in questo ambito, che è Il Meraviglioso. Erano tutti testi letterari, quindi scritti da scrittori, e ovviamente possono essere utili per uno studio sulle leggende, però bisognerebbe stare attenti a distinguere quanto c'è di veramente tradizionale in questi testi e quanto c'è invece di creato ex novo appunto dagli scrittori. Durante il tragitto di ritorno ci fermiamo al bar del paese per cogliere l'anima della gente del posto. Incontriamo Pietro e ci colpisce subito per la sua simpatia. Favole, favole, favole, so favole. È tranquillo, non c'è, c'è normale vita di paese. C'è lavoro, c'è famiglia, c'è pace. Credi in misteri, tipo le cose un po' surnaturali? UFO no, ti dico di no, UFO no. Fantasmi ci sono, spiriti ci sono. Quando sei con la testa un po' disampato, allora vedi qualcosa di strano. C'è lì Dio, vestito di bianco, sospiro. Ma che cazzo, ma quanto ho avuto stasera? Ecco fuori e mi dice così non va bene. È sparito. Franco Zambelloni, filosofo e coautore del libro Il Meraviglioso, scrive: l'uomo è abitatore di due mondi, quello reale e quello evanescente dell'immaginario. L'andi rivieni dall'uno all'altro mondo, dà senso a una realtà fisica che sarebbe insopportabile nell'insensatezza della sua mera presenza. Mentre i nostri corpi sembrano destinati a vivere nel presente, le nostre menti possono viaggiare in altri spazi temporali. Ti è mai capitato di sognare e poi ricordarti il sogno dopo? Mai. Tua anima va a spasso, va fuori. Tua anima va fuori, va a spasso e poi torna. Noi abbiamo un'anima, non è che siamo... c'è uno spirito, non è... andiamo fuori noi, no, è lo spirito che abbiamo dentro. Io tante volte gli sogni non... ma mi sono realizzati. Ho sognato di vivere con una famiglia su di una collina. Dove siamo? Dove siamo? Sogni o realtà, miracoli, animali soprannaturali. Ma qual è il contesto in cui nascono le leggende? Andiamo in Valle Maggia, la valle più selvaggia del Ticino, per scoprire il legame tra leggende, ruralità e tradizione orale. La montagna, che emana fascino e timore al tempo stesso, è stata a lungo considerata un luogo sacro. Prima sede di divinità pagane, poi luogo di devozione impregnato di cristianesimo. No. Vieni qua a raccontarmi una qualche storia. Ma che storia? La mia storia, la mia scuola qui. Storie di streghe. No, no, caverne ho tante streghe. E perché più a caverne che qui? Perché dicono che ci sono le leggende delle streghe del Medioevo. Anche qui c'era una signora un po' straba, che lei dormiva su un tavolo di sasso e il becco dormiva sul letto. Magari anche che da streghi che fai? Ma che parla di streghe? Ah, c'erano pane. Se la segale fa la muffa, diventa segale cornuta. E loro facevano il pane, poi mangiavano. Perché giravano senza vestiti, come LSD. L'uomo ha sempre avuto il bisogno di raccontare se stesso, deve scoprire chi è, e lo fa col racconto. L'uomo si è inventato gli dèi. Matteo Curatella, canta storie. Cioè, io parto da qualcosa che conosco per andare verso quello che non conosco, per scoprire il magico, il sogno. Questa è la tradizione orale, quella capacità di fermare il tempo. Andiamo a incontrare Bruno Donati, ex direttore del Museo di Valmaggia. Fondato negli anni 60, è stato il primo museo etnografico del Ticino, creato come reazione alla scomparsa della società contadina per conservare le testimonianze della civiltà alpina. Piacere. Dobbiamo levare le scarpe? No, le scarpe. Bruno ha trascorso ore a intervistare gli anziani della Valle Maggia per conoscere la realtà della vita rurale. Una vita fatta di duro lavoro, ma anche di condivisione di storie, raccontate la sera attorno al fuoco. È la mia impressione, no? Che questa gente aveva anche molta fantasia, no? E credeva sempre anche in qualche cosa che non era spiegabile, scientificamente provato. Però entrava questo bisogno di uscire da quello che era la quotidianità molto ripetitiva. Dovete anche immaginarvi com'era la realtà che loro vivevano. Questa realtà tutto sommato oscura, non c'era illuminazione nelle case se non ridotta al minimo, e non c'era tantomeno illuminazione pubblica, e quindi vivevano in un mondo che favoriva, no? Bastava un rumore per scatenare, no? Subito, che so io, un'impressione. Quindi era un mondo più non razionale, ma molto efficace dal punto di vista dei loro bisogni. La razionalità nel pensare era ridotta, molto ridotta, e quindi si rifacevano quei cliché che gli venivano dalla religione, tante volte dai genitori. Guarda, se vai vicino al fiume, che è pericolosissimo perché nessuno sa nuotare, ecco, esce che su io la linogia che poi ti tira dentro, no? La linogia era un essere animale, forse antropomorfo, anche in parte aveva degli aspetti anche umani, che serviva per tenere lontano i bambini da certe zone di pericolo. Se io voglio creare un essere col quale lo spavento, dico guarda che se vai lì esce la linogia, non lo devo descrivere tutto, lo devo lasciare molto così misterioso e anche un po' pauroso, no? Ecco, la linogia sarebbe la lunech, probabilmente un occhio, perché sono delle streghe con un occhio solo. Ecco, ma questo è un altro esempio di come questi esseri si metamorfizzano continuamente, cioè cambiano forma. Faccio un altro esempio. In Ticino è molto diffuso il gal basilisk, un piccolo drago, ed è un animale pericolosissimo perché può avvelenare a distanza o addirittura pietrificare con lo sguardo. Ora, il gal basilisk non è altro che il basilisco, che è un animale mitologico molto presente nei testi greci antichi. Originariamente il suo significato probabilmente era positivo, non negativo, però diventa questo re dei serpenti in ambito cristiano, e siccome il serpente in ambito cristiano è un simbolo del diavolo, diventa un'entità diabolica. Diventa anche un rappresentante dell'eresia. E una volta erano le nonne, erano i genitori che raccontavano quello che a loro volta avevano sentito raccontare, perché certe fiabe, leggende così sono plurisecolari. Franco Zambelloni, filosofo. La mentalità superstiziosa magica opera sempre, perché se uno legge devi essere prudente, perché se non gli capita niente se le dimentica, ma se gli capita dice: perbacco, aveva ragione. La parola crea l'evento. E questa è la mentalità magica che ha generato poi tutte le fantasie, le leggende e così via. La trasmissione della cultura, a mio modo di vedere, era prevalentemente lasciata al mondo femminile. A partire dagli anni 60 le donne, che erano in fondo condannate un po' alla vita in paese e all'attività agricola, cominciano a fare un tirocinio, ad esempio. Quindi la trasmissione avviene attraverso altri canali che non sono più questi della oralità. E oggi queste leggende sono state tutte codificate, trascritte, registrate, eccetera, no? E sono lì fisse. In passato la stessa identica leggenda cambiava forma, aspetto e coinvolgimento a dipendenza di chi la raccontava. Sebbene la maggior parte delle leggende abbia perso la sua originaria funzione sociale educativa e sia diventata più che altro una fonte di intrattenimento, non sono scomparse del tutto. Negli ultimi anni, una nuova ondata di antropologi e raccontastorie ha lavorato per dare nuova vita a questo patrimonio orale in via di sparizione. Dopo la lunga mattinata di caldo soffocante, finalmente è arrivata la pioggia. Andiamo a incontrare Andrea Jacot de Combes, antropologo e raccontastorie della Valle Maggia, che sta rioralizzando le leggende. Senti pure, accomodatevi dove volete, io... Volete un caffè, qualcosa da bere? Voilà. Grazie mille. Allora, io sono Andrea Jacot de Combes, 41 anni e faccio il raccontastorie. Per me lavorare sulle leggende vuol dire leggerle, se sono in forma scritta, se si trovano in un libro, oppure, quello che faccio molto spesso, per esempio andando nelle case anziani, facendomele raccontare. Quindi io prendo la leggenda, la rimetto in ordine cronologico, la semplifico e la racconto in modo che stia in piedi, senza il testo, senza niente fondamentalmente, come se io stessi parlando adesso a voi, racconto queste leggende. Ci sono dei racconti bellissimi, tenerissimo, della morte che deve andare a prendere una signora anziana. E questa signora anziana dice alla morte se può ballare un'ultima volta con lei, perché lei non balla più da tantissimo, suo marito è morto da tempo, lei non ha più nessuno con cui ballare, vorrebbe ballare con qualcuno, ma nessuno balla più con una vecchia. Allora dice alla morte: balla con me, poi io vengo. E la morte dice sì, e la vecchia va in camera, si veste, si mette il vestito più bello, i gioielli più preziosi, scende, balla con la morte, passa una serata bellissima. E la morte, quando deve portare via questa signora, non vuole, è intenerita, piange, perché è diventata amica di questa signora, però deve portarla via. Nelle nostre leggende, in un certo senso, vivono delle cose umane che li rendono anche simpatici, in un certo senso, no? Il diavolo che ha questo librone e conta le anime e si arrabbia perché il paradiso ne ha di più di lui, fa tenerezza in un certo senso, perché mi dico: ma cavolo, potrebbe fare chissà cosa, e invece no, è lì che conta le anime, no? Questo tipo di racconto si ritrova dappertutto. Viaggiano perché i narratori viaggiano. Siamo un popolo, noi ticinesi, di migranti. Nel fine 1800, dalla Valle Maggia partiva un maschio su tre. E la popolazione migra, e poi magari viene sostituita la popolazione non locale. I racconti partono con le persone che vanno. E se non è stato fatto niente prima per registrarli, per salvaguardarli, ecco che sono stati persi, magari poi arrivano nuove storie, no? Che poi magari si incarnano nel luogo, diventano nuove leggende, ma anche questo, la migrazione sicuramente gioca un ruolo. Nato Narrazione, regia e montaggio Zoe Rossion. Un progetto ideato da Jonathan Frigeri, con la partecipazione di Camilla Baumann. Musica di Giordano Roche.